cessate rimembranze crudeli ed un affetto tiranno. Già bare bare schietate mi cangiasti contenti in un immenso affanno. Cessate, ma cessate di lacerarmi il petto, di trafiggermi l'aia, di togliere allo cor riposo e calma. Povero cor afflitto e abbandonato, se ti tolga la pace un affetto tiranno, perché un volto spietato, un'alma infida, perché un volto spietato, un'alma infida, non sono la tua bella, pasce, dammi, pasce, pasce.